stetiscopi, cosa si nasconde dietro un magico silenzio? E leggerai tra le righe di un passato che non vuole andare, dove il tempo l'alloggia per la via liberare. Correre, lui deve andare, andare dove l'accadere appartiene ancora a quel possibile, possibile che non deve mancare neanche a te. E se accade poi che qualcosa prende un verso strano, lasciala andare e torna a me. E se ancora polvere di strade abbandonate ti imbiancano le scarpe, tu non curarle, poi la vita le dimentica. E queste lucciole, quasi stelle cadute in un prato, mi circondano in magico. Ma che viene poi da me? E guardali in faccia, questa vita è breve, tu lo sai. Se vuoi prendila, non deve mancarti alcun momento di quelli che non si dimentica, come di quelli o forse qualcuno che hai trascorso insieme a me. Rendi gli eterni, basta un soffio, uno sguardo dati al punto finale. Raccogli i tuoi pensieri, fallo in modo che non lascino frammenti, e prendile anche se sparse sono tue parole e non verità, scaglie di un racconto da serbare in un libro. Pagine pur bianche sono già scritte, e scriverai un poema che nei tratti scuri si apre come l'imbrunire, e poi ti parla di una notte stellata come te, e di notte brilli e la luna sennata la tieni per mano, e con un piccolo slancio la porti da me. E se ancora pensi che scherzare in amore sia più facile che non parlare, sebbene conquistati quei silenzi vanno via di te, che sempre cuore mio di battimenti, silenzi e parole, un grande splendido canto che si alza, mi resta e poi mi dice che se va il divenire porta a te. E guardala in faccia, questa vita è breve, tu lo sai. Se puoi prendila, non deve mancarti alcun momento di quelli che non si dimentica, come di quelli o forse qualcuno che hai trascorso insieme a me. Tu rendi gli eterni, basta un soffio, uno sguardo dati al punto finale. E guardali in faccia, questa vita è breve, tu lo sai. Se puoi prendila, non deve mancarti alcun momento di quelli che non si dimentica, come di quelli o forse qualcuno che hai trascorso insieme a me. Tu rendi gli eterni, basta un soffio, uno sguardo dati al punto finale.